bella come una catena spezzata dal collo, come una parola scritta su un foglio. Bella come l'acqua fresca di un giorno che leva la sete a un vagabondo. Sei bella come un ricordo, come un disegno perverso, come una regola infranta, come una luce nel buio. Sei bella come una macchina nuova, come una sera che lascia il tempo di volare. E vola, e vola come una farfalla. È bello l'inverno, ma è più la primavera. È bello il tempo che cambia il sogno e il veleno. Sei il sale, il vento, il buio e il movimento. Sei l'uccello che canta, che fa di te il senso. Ma dimmi che cos'è, ho tanto freddo da fare un giro per uscire sulla testa di un gallo che urla da un giorno, che balla sui piedi di un vecchio discorso. Sei bella, sei cara, sei la bella migliore di questa partita. Sei la vita, la luce, la casa e la sorella. Sei una stella, sei bella, sei tutta la mia vita. Sei la testa che cammina, sei la vita che si avvicina, sei l'acqua che scende, una lacrima sulla fronte, una bimba distante, una casa cadente, decrepita, decrepita, decrepita, decrepita. Sei la fata morgana, la luce assassina, sei il buio accecante per me che son cretina e che mi piaci così tanto da essere uno schianto, la pace, la forza di chi sa guardare. Il mondo cambia e corre, si rotola e poi discende, rimbalza, si alza, non c'è nessuno che l'aspetta. E poi cadendo davvero sul letto di un fiume, cercare, provare a lanciare un segno, un suono, un sasso in una testa rotta da un caldo marcio, come questa minestra che è troppo scaldata, a volte ribollita e mangiata, digerita.